Nell'ultimo conclave che ha eletto Benedetto XVI era stato indicato come il candidato papa sostenuto dallo schieramento anti-Ratzinger, il progressista contro il conservatore. Ma leggere in questo modo la complessa figura di Carlo Maria Martini sarebbe estremamente riduttivo e forse ingeneroso. Gesuita da quando a soli 17 anni entrò nella Compagnia di Gesù, l'ex arcivescovo di Milano, fine biblista, è stato fino alla fine uomo della Chiesa di Roma, ancor prima che ambrosiana. Una fede la sua capace di dialogare con tutti, esponenti delle altre religioni, laici, nota la cattedra dei non credenti, politici. In più di un'occasione i suoi discorsi alla città, la cui diocesi ha guidato per 23 anni, hanno fatto eco, così come hanno suscitato forti dibattiti ed animato le coscienze i suoi interventi su temi etici, l'ultimo in tema di unioni omosessuali. Forte di quell'autorevolezza che appartiene a pochi, Martini costruiva ponti e non steccati, e così arrivava al cuore di tutti, nonostante una timidezza innata. A Ratzinger, incontrato il 2 giugno a Milano in occasione di Family 2012, aveva voluto esprimere la sua vicinanza nel difficile momento del Vatilix, nonostante le sue condizioni di salute fossero già estremamente compromesse da quel morbo di Parkinson che per 16 anni lo aveva tormentato e di cui non aveva voluto fare mistero, proprio come Wojtyła, rientrando dalla Terra Santa nel 2008 per gestire la malattia. L'ultima scelta, pienamente in linea con il suo pensiero e che farà discutere, il rifiuto dell'accanimento terapeutico. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.